Nella puntata di oggi parliamo di una band che vi abbiamo raccontato tantissimo nel tempo, che abbiamo seguito tutte le volte che veniva a Bologna e qualche volta siamo andati noi in Piemonte, e questo è già un piccolo indizio per capire di che band stiamo parlando. Abbiamo con noi Eugenio degli Eugenio in Via di Gioia. Benvenuto Eugenio. Ciao a tutti, ciao a tutti, eccomi. Come stai? Sto molto bene, grazie. Ho appena recuperato un po' di voce dopo tutti questi concerti, queste urla, ed è bello tornare anche un po' a riposarsi, diciamo, in maniera nella quotidianità, ecco. Benissimo, però non riposarti troppo, perché domani sera sarai da noi a Bologna, quindi insomma ti puoi riposare ma senza esagerare, mi raccomando. Allora, vi abbiamo raggiunto perché appunto siete, tu ci parli diciamo a nome di tutto il gruppo degli Eugenio in Via di Gioia, e domani sera sarete a Bologna con una data che è già andata sold out, ma sarete sul palco anche per presentare il vostro ultimo lavoro, che è uscito il primo giorno di primavera, molto romantico. Sì. E parla proprio di amore, insomma è un ultimo disco con 10 tracce che racconta l'amore, ed è un tema delicato e alle volte secondo me in questi tempi anche un po' démodé. Quindi ti chiederei, in che modo avete scelto di raccontarlo? Allora, noi tra l'altro arrivavamo da un precedente disco 3 anni fa che si chiamava Amore e Rivoluzione. Quindi l'amore è in qualche modo entrato nella nostra discografia a gamba tesa. E c'è da dire questo, noi siamo conosciuti anche e soprattutto per non aver mai scritto una canzone d'amore. E questa era una cosa che ci aveva fatto molto sorridere nel tempo. Eppure le nostre canzoni sono piene d'amore, e questo disco lo abbiamo voluto proprio ribadire nel titolo. Ci siamo resi conto in una sorta di illuminazione personale, ma in realtà che riguarda tutti noi quattro, che effettivamente tutto ciò che guardiamo nel mondo, no? Le lenti con cui guardiamo il mondo, l'attualità, la politica, l'ambiente, in qualche modo riflettono il nostro stato d'animo e quindi si possono scalare nel piccolo, nei rapporti personali. E questa cosa ci ha portato a considerare le emozioni, e quindi l'amore, no, che comprende tutte queste emozioni, con un nuovo punto di vista che in qualche modo racchiude tutto ciò che poi ci riguarda più nel profondo, anche legato al mondo esterno. Ma riguardo la musica e l'amore, no? Collegando insomma questi due macro argomenti, che funzione ha per voi la musica e che funzione può avere anche nel rapporto col pubblico per parlare proprio di tanti temi, come voi avete sempre fatto, anche che riguardano in maniera, con un registro che può sembrare leggero, in realtà tematiche molto importanti? Hai fatto una bellissima domanda, perché appunto l'amore è una parola talmente ampia e altisonante che a volte perde completamente di significato, perché in realtà è una metafora, è una delle metafore più potenti che conosciamo, e la musica, e lo è a sua volta, tutte le arti lo sono, ci permettono di veicolare attraverso un linguaggio che non è quello razionale, logico, scientifico, dei messaggi, che in realtà non sono dei messaggi, sono proprio delle sensazioni, dei pensieri, degli stati d'animo. E quindi nel nostro caso la musica ci aiuta, perché oltre ad utilizzare le parole, quindi un linguaggio verbale, noi possiamo sfruttare il linguaggio ritmico, quello della batteria o degli strumenti musicali, un linguaggio melodico, armonico, e quindi arricchire di una serie di sfumature tutto il nostro portato. Per noi questo ha la musica come ruolo, il ruolo di utilizzare una metafora in più per comunicare, quindi unire i puntini tra tutte le persone che ascoltano questa musica. Riguardo anche all'uscita di quest'album, ha segnato un momento un po' particolare, un momento di cambio, se non ho capito male, nella vostra carriera e anche nel vostro rapporto con la produzione e la casa discografica che seguite. Cos'è cambiato? È cambiata la squadra, devo dire. Negli anni, noi ormai abbiamo una carriera di 12 anni insieme, abbiamo avuto la fortuna di non cambiare tantissime squadre, perché è bello quando si costruisce qualcosa di solido, con delle radici profonde. Ti cito due esempi: il nostro manager e il nostro agente di booking, che detti così probabilmente la gente non sa cosa siano, quali siano i ruoli, però sono due ruoli fondamentali all'interno di una band come la nostra, e ci seguono dagli inizi. Loro hanno iniziato con noi quando né noi né loro guadagnavamo neanche una lira. È stato un investimento veramente di passione, di vocazione, d'amore, e questo ha fatto la differenza. E devo dirti che questa nuova squadra con cui stiamo costruendo un nuovo percorso, un nuovo capitolo degli Eugenio e di Gioia, si sta dimostrando estremamente appassionata e, come dire, entusiasta di lavorare con noi, e questo per noi è fondamentale. E a proposito di quello che dicevi tu prima, le canzoni possono cambiare il mondo, possono, io credo di sì, e se le persone che ruotano intorno a queste canzoni ci credono, allora il messaggio arriva ancora più forte, come se il megafono fosse amplificato. Bene, allora proprio per celebrare, se ti va, insomma, questo cambio, ti chiederei una canzone da dedicare anche alla vostra squadra, se vuoi, e da far ascoltare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, e poi continuiamo con la chiacchierata. Sì, la canzone che scelgo è Luna, la canzone del nostro ultimo disco, L'amore è tutto. E poi se vuoi magari ti motivo la risposta. Perfetto, allora quando rientriamo ci spiegherai il perché. L'aggiungeremo ovviamente in un secondo momento, quindi come se la stessimo ascoltando, rientriamo. E quindi, come mai Eugenio hai scelto questa canzone? Perché la luna è un'altra ulteriore metafora, come dicevo all'inizio, questo disco, ma il titolo stesso, L'amore è tutto, è una grossa metafora con cui abbiamo cercato di raccontare il nostro modo di stare al mondo, e questa canzone è un'esplosione di energia e di vita, che è un po' quella che ci sta accompagnando in questo capitolo. In questo tour, tra l'altro, abbiamo ricevuto un calore pazzesco da parte del pubblico in tutta Italia, e sono sicuro che Bologna non sarà da meno, perché per esperienza Bologna è sempre stata una delle città più calorose, e non so, questa canzone è come se fosse un'estensione di questa emozione. Beh, ce la giocheremo bene allora, visto che questa dedica alla fine un pochino era anche per Bologna, alla fine, dai, quindi cercheremo di farvi sentire il nostro calore domani a Estragon. Ma Mauro ha una domanda per voi. Sì, perché il disco L'amore è tutto, c'è un inserto particolare, diciamo, dentro a questo disco, dei tarocchi rivisitati in 33 carte. Cosa sono e come mai questa proposta? Allora, abbiamo inserito questi tarocchi perché, come dicevo prima, le canzoni sono 10 metafore dell'amore, e i tarocchi ci aiutavano a rendere ulteriori spunti, no? Come se fossero delle allegorie contenuti all'interno delle canzoni. 33 carte sono 33 parole chiave dei brani, e vi racconto la storia, come noi siamo entrati in relazione con queste carte, non con le nostre, perché queste sono tutte inedite, disegnate e pensate dalla nostra squadra, insieme al Laboratorio Zanzara, ma le carte dei tarocchi ci hanno attraversato e colpito proprio quando stavamo finendo il disco. Noi ci trovavamo a Palermo e una ragazza, un'attrice che si trovava a Palermo anche lei, per puro caso, ci ha incontrato una sera, ci ha detto: ragazzi, vi va se vi leggo le carte dei tarocchi? Noi non avevamo mai fatto nulla del genere, ci siamo prestati a questa lettura e siamo rimasti folgorati, perché avevamo sempre pensato ai tarocchi come una sorta di modo per futuro, in maniera scaramantica, in maniera da cartomanzia quasi divinatoria, magica, ma ci siamo ricreduti subito, perché hanno molto più a che fare con la psicologia, quasi con la psicanalisi, e con il profondo io che ciascuno di noi porta con sé dentro. Perché la cosa interessante è che ciascuno di noi legge le carte, non è il cartomante, la persona che le legge, che fa la differenza, ma in base a come noi interpretiamo queste immagini riusciamo a capire dentro quali sono i nostri desideri più reconditi, e quindi possiamo fare una sorta di autoanalisi. E questa cosa ci auguriamo che venga fatta anche attraverso le nostre carte, che hanno dei disegni tutti loro diversi da quelli dei tarocchi, ma in qualche modo sono degli archetipi che a noi ispirano molto. Beh, a me piace moltissimo questa spiegazione, sono molto molto molto curiosa, ma ne parlerete anche sul palco, perché appunto abbiamo citato più volte il fatto che domani sera sarete qua a Bologna, siete impegnati in un tour, cosa ci aspettiamo sul palco? Cosa ci possiamo aspettare? Tra l'altro in un tour che ha segnato diversi sold out. Sì, allora bisogna aspettarsi una un'ondata di amore, Ma la cosa veramente bella che è accaduta nei precedenti live, che in parte ci aspettavamo, in parte no, al di là di tutte le scelte artistiche che ci saranno, lo spettacolo sarà vario, ma quello voglio dire, chi ci ha già visto live lo sa, si deve aspettare veramente di tutto, dal cubo di Rubik risolto sul palco mentre suoniamo a corse matte in mezzo al pubblico. Ma ciò che ha fatto veramente la differenza in questo live rispetto ai precedenti credo sia proprio questa situazione di grande incontro tra singoli individui che diventano le persone si sembrano entrare in sintonia, è come se risuonassero come un'armonia di una canzone, no? E alla fine del concerto si arriva da soli e se ne va via in gruppo. Ci sono state le nascite di amicizie, addirittura delle persone ci hanno scritto che hanno conosciuto quella che poi è diventata la loro il loro flirt di questi giorni, insomma, chissà cosa diventerà poi. E quindi è interessante perché succede veramente qualcosa, non saprei dirvi cosa. Ecco, a proposito di energia, di live, mi è venuto in mente che la prima volta, credo, che vi ho intervistati io, ci siamo ritrovati al Locomotive, io sono arrivato, voi stavate giocando a calcetto sotto palco e mi sono unito anch'io ed è stata una cosa molto bella, c'era una bellissima energia, quindi ecco, io ho questo ricordo di un'intervista con Eugenio in Via di Gioia. Beh sì, diverso tempo fa, però sicuramente una cosa che ai vostri live abbiamo sempre sentito è diciamo molta vicinanza, nel senso non c'è separazione tra il palco e il pubblico, sì. Anzi, e quindi noi speriamo di ritrovarlo anche questa volta. Sì, diciamo che c'è questa cosa per cui noi ci siamo accorti che la nostra vita è abbastanza ordinaria, non facciamo nulla di assurdo, però questo essere ordinari si sta rivelando straordinario, soprattutto in un'epoca come questa in cui veramente con la polarizzazione del pensiero, i nazionalismi che imperversano nel mondo, le guerre, al di là di quello che accade a livello globale, anche rimanendo nel piccolo, c'è sempre meno ascolto tra le persone. Noi ci siamo accorti invece che quello che stiamo ricreando nel nostro gruppo tra noi quattro, che sta diventando quello che può accadere in una famiglia di persone che prima lavoravano insieme, che adesso si accorgono di essere non solo amiche ma veramente una famiglia, e si può ricreare quella situazione di semplicità che noi forse ci ricordiamo di quando eravamo bambini e ci incontravamo con gli altri amici, no? E si può fare ed è una cosa magica, e quindi come diceva Mauro, giusto? Sì. Quando abbiamo giocato tutto il palco del Locomotive, me lo ricordo anch'io, è stato bellissimo. E questo è solo uno dei piccoli momenti che contraddistingue quello che succede quando stiamo insieme e portiamo l'amore che portiamo dentro ciascuno di noi, non solo noi, ma È bello, è stupendo, non ho altro da aggiungere. Beh, allora, noi ti ringraziamo e anche per essere stato il portavoce di tutto il gruppo e averci raccontato, insomma, questo nuovo capitolo della vostra storia. E ti chiederei se hai voglia di scegliere una canzone per salutarci e salutare le nostre ascoltatrici e ascoltatori che, chissà, speriamo saranno sotto palco domani sera. Allora, io sceglierei un'altra America. Ed è quello che stavo dicendo prima, molto spesso ci diciamo vabbè, hai scoperto l'America, hai scoperto l'acqua calda come qualcosa di banale, ma noi crediamo fortemente, come dicevo prima, che dentro le cose banali, normali, si nasconda una meraviglia che forse troppo spesso diamo per scontata, e quindi questa è un'altra America. Perfetto, allora ce l'ascoltiamo e ti ringraziamo tantissimo e insomma appuntamento a domani, appuntamento sera, a domani sera. Grazie. Grazie, ciao. Ciao. Grazie mille. Ciao. Ok, ciao. Grazie mille.